Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Puntuale come ogni mercoledì sera il nostro appuntamento con la musica dal vivo negli studi di Blu Radio Veneto. Bentrovati dalla voce di Sergio Bortolami, dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara. Questa sera con Mirko Colombari, direttamente da Reggio Emilia, è vero Mirko? Sì, vengo da Reggio Emilia, si sentirà anche un po' dal mio accento. E saluto tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto e grazie soprattutto qui alla regia e per questa serata a disposizione, alla direzione anche. Sì, ringraziamo Alberto Pisco, il nostro direttore artistico, esatto. E stasera ti ha voluto fortissimamente qua stasera per presentare il tuo disco. Bock si chiama, Bock, sì, che è una galassia. Che cos'è Bock? Guarda, Bock ha un doppio significato. In dialetto reggiano vuol dire rovi. I rovi, esattamente. Esatto. E invece l'altro significato è la nebulosa prestellare, quindi l'insieme di gas e di polveri che stanno nell'universo, da cui nascono poi le stelle. Quindi una stella si forma dalla nebulosa di Bock, che viene dal suo scopritore, che è un astrologo che ha scoperto questa nebulosa. E quindi io ho cercato di mi è piaciuto subito il significato quando ho sentito questo concetto, perché l'idea che volevo dare al mio progetto era non solo fare delle note, ma volevo che da questo progetto nascessero delle altre cose, che siano collaborazioni, che siano una cosa interessante. Per poter capire dove nasce questo progetto ritorniamo un po' indietro, Mirko. Intanto salutiamo Antonio. Yes, Antonio Gil è il mio fedele scudiero stasera. Sì, suona la chitarra acustica come te, sì, ti dà una mano, sì, importante. Sì, colora, molto... cari ascoltatori, microfono spento, Mirko ha detto una bella cosa, colora i miei pezzi, Antonio. Sì, e poi diciamo che abbiamo una collaborazione che va avanti da alcuni anni. Anche lui è poi, oltre che chitarrista e cantautore, scrive in spagnolo dei pezzi cubani. Lui è cubano, d'origine cubana. Sì, di origine cubana, e quindi abbiamo collaborazioni anche che vanno al di fuori di Bock, però stasera siamo qui per presentare l'album, ma diciamo che lui ha anche un suo percorso d'artista, quindi magari in futuro avremo l'occasione di conoscerlo meglio. Ma possiamo ospitarlo, conoscerlo meglio dopo, ne può sicuramente parlare. Assolutamente sì. Allora, torniamo un po' indietro, dove nasce il progetto di Mirko Colombari, cantautore ma un po' atipico? Ma guarda, il mio è un percorso, direi, tanto ami strano, la chitarra, ami perché, la esatto, chitarra. Perché io ho cominciato a suonare la chitarra dall'età di 5 anni, perché avevo uno zio che strimpellava, suonava un po' la chitarra, e io tutte le volte che vedevo mio zio con la chitarra andavo là, prendevo sta chitarra, suonavo, e un giorno mi ha detto: ma dai, portala a casa, che avevo 5 anni, così io ne compro un'altra. E io ho cominciato così a strimpellare la chitarra. Poi ovviamente potete immaginare, facevo un casino in casa incredibile, rumore incredibile, sì. C'è, cioè, un casino nel senso positivo, sì, però rumore musicale. E i miei un giorno mi hanno detto: guarda, basta, ascolta, se vuoi suonare la chitarra, adesso avevo cinque anni e mezzo, sei, ti mandiamo al conservatorio, giusto, che così impari qualcosa, devi conoscere, esatto. E dopo sono andato al conservatorio del mio paese, da cui ho imparato poi tutte le basi della musica classica, teoria, solfeggio. A scuola non ero tanto bravo, premetto, perché non sono mai stato tanto diligente nelle scuole. Stai zitto, stai fermo, mettiti a modo, hai fatto i compiti, non sei capace di stare fermo, hai dedicato un pezzo allo Ducati, non puoi stare, esatto, fermo. È un casino, è proprio difficile per me. E quindi, sai, le scuole ho sempre sofferto, però sono cose che poi nel corso degli anni ti rimangono, servono tantissimo, servono. È bello, la base serve, esatto, servono le basi. Poi insomma al conservatorio mi hanno seguito poi anche le mie sorelle, ho due sorelle pianiste, però quindi dopo loro un'altra, tra l'altro, ti bacchettano se sbagli, sì, no, anche loro adesso vengono a ascoltare i miei concerti: no, ma quel pezzo là, guarda che hai stonato in fondo, che e gli ho detto: ma sì, ma non si è sentito. Fanno: l'hanno sentito tutti. E gli ho detto: va bene, ok. Cioè, ok, quindi io praticamente quando vado davanti a suonare un pezzo davanti al pubblico devo stare attento a chi mi guarda, perché le mie sorelle non mi lasciano, cioè, soprattutto mia sorella piccola che si sta diplomando adesso al decimo di pianoforte. Salutiamo, che la salutiamo. Ciao Luci. Ecco, benissimo. mia sorella piccola, e lei non mi lascia, cioè non mi lascia passare una, mi ha detto sì, il livello stasera della serata era medio, gli ho detto no, guarda, c'erano dei musicisti, abbiamo fatto una serata, no, sì, abbastanza bello, non ma è difficile mai vivere in una famiglia di musicisti, Mirko. Sì, perché poi tra l'altro siamo su due piani, o suono io o suona lei, quindi c'è sempre musica in casa, sempre musica tutto il giorno, e che un po' delle volte abbiamo degli ospiti, dico ma qui sentite tutto il giorno la musica, pianoforte, la chitarra, sì, più o meno. È bellissimo, secondo me. È bellissimo. Facciamo una cosa di questo genere, caro Mirko, e anche Sergio è d'accordo. Entriamo subito in bocca e sentiamo un primo pezzo che hai scelto da scaletta. No, sentiamo prima da disco. Ok, prima da disco. Ti ricordi che cosa hai scelto? Sì, ho scelto Vivo. Vivo che parla di politica, di società. Diciamo, sì, di società. Diciamo che è un pezzo introspettivo un po', dove io ho meditato, cioè stavo cercando di capire determinate cose, e c'è una critica velata delle volte a chi predica bene e razzola male, come dico io, no? Quindi in tutti i livelli, sia nel livello della vita di tutti i giorni, sia a livello politico, che soprattutto negli ultimi tempi siamo in momenti abbastanza razzoliamo difficili. Male qualche volta. Razzoliamo abbastanza male, insomma, siamo visti un po' in una maniera un po' strana da tutto il pubblico, dall'estero, soprattutto dall'estero. Quindi Vivo credo che parla un po' di questo e un po' anche della mia essenza. Comunque ascoltiamolo. Adesso lo sentiamo, sì. Ok. Rock Wave Live. Bene. Questa mia casa che entra e va, vedo la gente che ha in mano il biglietto della lotteria. Notte, sudore, pelle, cuore su quattro gomme nuove. Corro cercando le parole, ma cosa c'è da dire? Vivo, vivo il giorno a modo mio e credo che in qualche posto ci sia un Dio. Vedo, vedo l'amore a modo mio. Modo mio. Vivo in questa città piena di facce che conosco già. Sono birra che splende davanti a te. Bevo, risparmio le parole e quel che devo dire tu donna già lo sai. Sento le voci tra le luci, gli odori degli ormoni e chi vivrà vedrà. Il giorno a modo mio e credo che in qualche posto serva un Dio. Vedo tutte le cose a modo mio, la cattiveria a modo mio. Meglio chi tace di chi poi ti dice che cosa non devi fare. Cos'è che mi puoi dare? Politica di corretto, no. Meglio chi tace di chi poi ti dice così che si tradisce. Politically correct. Vivo, vivo il giorno a modo mio. credo che quando serva arrivi. Ok, abbiamo sentito Vivo, questa ballad, tu sì. Giustamente Mirko dicevi, mentre il microfono era spento, che è una ballad del pezzo più rock, più pop, del disco. Allora io ti ho chiesto, come mai non l'avete messo come singolo, non hai voluto metterla come singolo? Perché va bene così, le sonorità ti piacevano di più in anarchia. Sì, diciamo che Amore versus Anarchia, ma più che le sono, perché sai, come si dice un po', ogni scarafone è bello a mamma sua, quindi a me i pezzi mi piacciono, a me piacciono, esatto, li sento tutti miei per un verso, per l'altro, e poi io più che altro per decidere quello che secondo me era il pezzo da proporre un po' di più inizialmente, ho sentito i giudizi dei miei ascoltatori, dei miei amici, e anche al di fuori dall'Italia, la mia ragazza è olandese, viene dall'Olanda, e quindi loro, non sapendo bene il significato delle parole, mi cantavano sempre l'amore, e quindi gli rimaneva in mente questa cosa qui, quindi ho detto ma sì, insomma, lasciamo quello, poi non è precluso, perché per dirti, ho fatto un live a teatro al Parco Ducale a Parma, molto bello, con Lorenzo Campani, Anna Scaffardi, gente molto brava, e mi hanno chiesto di eseguire Vivo, che era questo pezzo qui, che forse per alcuni versi a molte persone piace di più, perché è il pezzo più meno rock, quindi più pop, e quindi magari forse a molta gente è piaciuto più questo. Certo, ritorniamo leggermente indietro, abbiamo parlato dei tuoi inizi, tu hai composto, hai inciso due EP, possiamo dire, questi? Sì, diciamo che prima ero rimasto al conservatorio, poi ho cominciato come tutti qualche lezione di chitarra elettrica, qualche cover band, qualche cosa gruppo. Serve essere in una cover band? Guarda, io ti dirò che prima di tutto il groove e l'imparare a suonare insieme del rock. Chiaramente poi devi fare una scelta, cioè se vuoi essere un artista devi abbandonare il mondo delle cover e fare roba tua, rischiando con tutto quello che è, perché io facevo già, mi ricordo, a 16 anni, 15-16 anni facevo già serate in giro. E cosa già facevi? Facevo il chitarrista in una cover band e facevamo, non so, il pezzo di Clapton, il pezzo dei Red Hot Chili Peppers, Ligabue. Mica male, cioè mica sì, semplice sì, fare sì. Un pezzo dei Red Hot Chili Peppers. No, a 16 no, anni. Era il com'era? Facevo questi pezzi giri. Qui mi piacevano anche allora il rock, il funk rock e queste cose. Ho imparato tantissimo, conosci molta gente, molti musicisti anche di alto livello. Certo, e poi parleremo di musicisti di alto livello che hanno partecipato a questo disco. Sì, esatto. E dopodiché a un certo punto ho deciso che volevo dedicarmi completamente alla composizione, ma come chitarrista o non ero tecnicamente abbastanza preparato, o non ho trovato la situazione giusta, o non lo so, a un certo punto ho sentito l'esigenza di mettere anche delle parole all'interno dei brani, perché soprattutto credo per potermi far capire anche da persone che non suonavano la chitarra. Certo. Perché il mondo della parola tocca più persone, arriva verso più persone, quindi mi sono dedicato, mi piace leggere anche, mi sono dedicato anche alla scrittura di qualche poesia, alla lettura di qualche, approfondire i testi delle canzoni, approfondire anche quelle che sono dei racconti brevi che si potessero avvicinare a questo mondo, e ho conosciuto un ragazzo del mio paese che lui scriveva poesie, cantautore Strabba, che saluto, mi ha dato una mano a quello che è l'inizio. Io ero più chitarrista, lui più cantautore, più cantante, mi ha dato tutto, mi ha passato tutto quello che erano le sue impressioni sulle mie prime scritture, sui miei primi pezzi, e quindi mi è servito tantissimo. Abbiamo un percorso, anche questo album qui gliel'ho fatto sentire prima di registrarlo, mi ha dato tutte le sue impressioni di quello che secondo lui poteva andare, le sensazioni che gli arrivavano, e questo è stato, diciamo che all'età di 17-18 anni ho cominciato con a dedicarmi alla scrittura, a veramente scrivere, e quindi è nato il mio primo EP con i pezzi, quelli che alcuni si trovano su YouTube, Venere Azzurra, Adrenalina, Serata di Cinema, ci sono alcuni video su YouTube. Un EP da 19 pezzi, bello composto, un disco. Un disco praticamente più che praticamente avevo fatto un EP con una band che si chiamavano Gli Elemento Naturale, che avevamo cominciato con un rock acustico che poi si è allargato, avevamo registrato 6 pezzi, e dopodiché io ho continuato la mia carriera da solista, certo, perché la band per vari motivi si è sciolta, e poi ho messo insieme questi due lavori, ho fatto il mio EP da 18 brani, che alcuni dicono che sia ancora più bello questo, che cioè per gli affezionati, i tuoi fan, i miei fan, quelli che mi conoscono da tanti anni, piace ancora i miei primi brani, perché sono forse meno lavorati ma più ruspanti, quindi forse ci sono cose anche più ingenue, diciamo, più. E dopodiché ho fatto questo EP, poi nel 2008-2007 ho cominciato a lavorare a C219, che è il disco che poi presenteremo un pezzo, che è un disco dove ho lavorato con tutti non professionisti. Ah, perfetto, è una scelta tua questa? Sì, è stata una scelta mia, scritto, prodotto e arrangiato da me, certo, e non ho lavorato con professionisti, e tutti i musicisti erano della zona della montagna reggiana, quindi Castelnuovo nei Monti, erano persone che ho conosciuto lungo il mio percorso, e ho deciso di fare questo album insieme a loro. Insomma, l'album ha avuto anche qualche riscontro positivo. Anche è stata la base per poi arrivare al disco ufficiale. Dopodiché, Bico. Esatto, io a Bock, no, Bico, Bock. Bico è un'altra cosa, sì. di un po' di tempo fa di Peter Gabriel. Diciamo che un po'. C'è poi un collegamento ideale. Ma ideale, ci sono la B e la K insieme. Esatto, la B e la K. Beh, dopo praticamente ho deciso di fare il salto, nel senso anche a livello qualitativo, non solo perché il percorso artistico è una cosa che è molto interiore, quindi ero già contento del mio percorso artistico quando ho fatto le mie registrazioni dell'album Bock. Le mie prime registrazioni erano chitarra e voce, oppure sono andato in uno studio da solo e ho registrato i bassi, le chitarre acustiche, le percussioni, per dare un qualcosa di mio, un demo che ho fatto sentire ai miei amici, ho regalato alle persone che mi stavano intorno per dire cosa ne pensate, vi piace, non vi piace. Dopodiché non lo sentivo abbastanza, allora ho detto ma che abbiamo i musicisti professionisti, allora ho detto ma cosa faccio, ho provato a coinvolgere musicisti non professionisti dell'album di prima, ovviamente io ho avuto, cioè ho chiesto determinate cose, e chi non si è sentito, chi mi ha detto no guarda io a quel livello lì non riesco a starci, non arrivo a avere quei tempi lì, perché dopo si parla di una spendita di tempo di un certo rilievo, certo. Uno deve sacrificare parte della vita, non è solo il divertimento, certo, così. Certo. Quindi dopo un certo punto ho cominciato a chiedere in giro tra le persone nell'ambiente che conoscevo già, tra cui il mio amico Paolo Faldi, che è Overdrive Studio Milano, lavora con Jurman, lavora con un sacco di persone a Milano, e lui insomma abbiamo parlato un po', tra cui ho provato a sentire Emiliano Fantuzzi, che era ne parliamo dopo, eccetera, di musicisti. Adesso cominciamo a suonare, hai scelto un primo pezzo da far sentire. Yes, è il pezzo che secondo me è quello che apre un po' questo scontro di amori. Sì, è il pezzo, guarda, è un po' strano, perché delle volte io sono un praticone, no, nella vita, e poi delle volte invece ho queste cose che mi metto a riflettere, e questo è un pezzo proprio di riflessione, perché amore versus anarchia è quasi un dialogo è un dialogo ideale tra quasi dantesco tra due personaggi, l'amore e l'anarchia, l'assenza di regola, dove combattono in continuazione e l'amore muore sempre, è sempre ucciso dalla mancanza di regole, però rinasce come un fiore, e l'anarchia è una dea spietata che continua ad ucciderlo però senza arrivare a un risultato finale. E quindi questo è, diciamo, la mia visione di quello che è l'amore. Ok. Ognuno se la giusta come vuole. L'amore a volte muore. La gente resta tutto indifferente. Capisce solo quando si ferisce. Ai ai ai, questa sporca verità. Dimmi un po' chi la sa. Ai ai ai, questa dura realtà. Dimmi chi ce la fa. Vittime della vostra ipocrisia. Direte, direte. Vittime della vostra gelosia. Non è vero, non è colpa mia. E l'amore, l'amore, l'amore vince sempre a tutte le ore. Nasce poi muore, poi nasce poi muore come le rose. E l'amore, l'amore, l'amore segue sempre tutte le mode. Come il sesso tra noi due. Ognuno reagisce come vuole, col sangue oppure con le rose. Gli amanti sono sempre in confidenza, poi d'un tratto nascono tradimenti. Ai ai ai, questa sporca verità. Dimmi un po' se ti va. Ai ai ai, questa dura realtà. Dimmi se cambierà. Vittime della vostra gelosia. Vedrete, oh, vedrete. Vittime, una notte in agonia. Non è vero, non è colpa mia. E l'amore, l'amore, l'amore vince sempre a tutte le ore. Nasce poi muore, poi nasce poi muore come le rose. E l'amore, l'amore, l'amore segue sempre tutte le mode. Come sesso tra noi due. Ma l'amore perde sempre l'anarchia, mal pagata e sbandata, ma sincera, sarà vero, proprio colpa sua. E l'amore, l'amore, l'amore vince sempre tutte le ore. Nasce poi muore, poi nasce poi muore come le rose. E l'amore, l'amore, l'amore segue sempre tutte le mode. Tutte le mode, segue tutte le mode. E l'amore, l'amore, l'amore. E l'amore, l'amore, l'amore. Blu Radio Veneto. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Mirko Colombari nei nostri studi con, l'abbiamo sentito con questa canzone, Amore versus Anarchia, la prima traccia del suo disco, Maurizio. Esattamente, adesso Mirko l'ha presentata live, e quando si presenta una cosa live, cambia, ma in senso positivo. Sì, diciamo si che trasforma. Cerco di metterci qualcosa che vada, che sia espressione di quel momento lì, insomma. Esattamente. Diciamo anche gli accordi, una cosa molto positiva. Ci sono state delle recensioni ottime. C'è una bella recensione di Rockerilla. Si parlava con Mirko prima, microfono spento. Quando un cantautore emergente viene citato da una rivista come Rockerilla, che è una rivista che ha un certo seguito e un certo modo di interpretare le cose, è una cosa molto positiva. Sì, sono rimasto molto contento, quasi inaspettatamente. Cioè, inaspettatamente mi aspettavo recensioni o il mio ufficio stampa ha mandato il disco. Ha fatto un bel lavoro. Sì, sì, ha fatto un bel lavoro. 5PM. Sono state molto. Sono due ragazze, dicevi. Due ragazze. Sono un'agenzia, insomma, non è proprio. È un ufficio di promozione musicale, piccolino, e hanno curato il mio lavoro. Hanno mandato il disco di qui e di là e mi hanno detto: vediamo cosa dicono, se piace o non piace. Sono rimasto molto contento. Siamo rimasti molto contenti perché sono uscite recensioni poi su Outtune, sì, Alternativa, certo. Hans Magazine, positive. Poi c'è anche stato a chi non è piaciuto, sì, è vero, è vero. Ci sono state anche recensioni, ci vogliono. Poi una cosa, Rockerilla, sì, è stato molto, sono stato contento perché è una rivista di spessore, sì, che parla di rock e dintorni, e poi insomma non è facile entrare nei recensori di Rockerilla, no, poi insomma nel numero di gennaio 2013, quindi, hanno recensito Guccini, sì, Elvis Costello, cioè, Green Day, appena sotto Guccini, sì, esatto, che non è vicino, che, no, diciamo, tu che sei di Reggio Emilia, lui di più verso Parma, beh, cioè, è un grande onore essere recensito subito dopo Guccini, sì, poi insomma. E poi una frase ha scritto il recensore, che è Maurizio Maschio: una sincerità che spiazza e convince. Lui in due frasi ha dato il nocciolo, ha dato l'essenza di quello che è Bock. Sì, è proprio, poi credo che tra l'altro abbia il recensore abbia ascoltato con attenzione particolare il mio disco, sai, a volte ci sono recensori che lo ascoltano in tre minuti, leggono poi, solo la cartella oppure stampa, oppure leggono la cartella stampa, poi ascoltano due frasi. Invece secondo me lui ha ascoltato bene, perché è partito con, se leggi l'inizio, sì, ha scritto come chitarrista, cantautore, songwriter, esatto, che quindi è una cosa abbastanza, perché io effettivamente sono chitarrista, mi sono dedicato al cantautorato e scrivo i miei testi, quindi sì, è un insieme di cose. Lui ha capito bene, cioè ci sono recensori che mi hanno catalogato come cantante pop, sì, e quindi già lì arriviamo che là non sei stato contento, no. Cioè, indipendentemente dal giudizio, uno che mi arriva e mi dice sono un cantante pop, no, vuol dire ma che esiste sbaglia... il cantante pop? Sì, esiste, può esistere il cantante pop. Ma non è un autore allora il cantante pop? No, il cantante pop è uno che canta e basta e canta il pop. Esatto, cosa dici, Sergio, tu di questa definizione del cantante pop? Un po' stretta. È un po' stretta. Sì, anche perché insomma quando uno è con me, io faccio una serie di cose che girano intorno al mio pensiero, quindi il mio pensiero artistico, e tutte queste cose richiedono tempo e attenzione, perché dal momento che io tolgo attenzione a questa cosa qui e devo dedicarla al testo e dopodiché devo dedicarla all'esecuzione del cantato, che negli ultimi anni mi ci sono dedicato molto, perché era una cosa che a me non, cioè io sono arrivato a cantare per esigenza, io non volevo cantare. Ah, potevi fare solo lo strumentista. Io volevo fare lo strumentista e eventualmente scrivere qualche pezzo insieme a qualche band. E poi dopo, appunto, sai, ed entrare in una band, non ho avuto varie band. Sì. Ho avuto varie band. Però le band sono arrivate e sono passate, più di una, due, tre, e dopodiché, cioè, ci sono momenti in cui arrivavo lì con le mie canzoni, mi trovavo lì e dicevo cosa faccio, le suono, le scrivo, quando le scrivo le devo cantare una qualche maniera, tanto vale che allora faccio che lo sforzo, faccio da me. Quindi faccio da me, provo, ho tolto, è stato inizialmente molto difficile proprio a livello emotivo, perché dovevo abbandonare delle cose, dei tecnicismi da chitarrista. Tu chiami Tony Emanuel, che mi piace, è uno di grandi, sì, tecnicisti. Sì, mi piace Tony Emanuel, mi piace Monty Montgomery anche a Tony ha detto sì, è vero, è vero. Parliamo con lui, Antonio. Lui è più ispirato da artisti tipo Paco de Lucia, io forse Tony Emanuel, Monty Montgomery anche, che ho avuto piacere di sentirlo dal vivo, che è un po' più rock. più rockettaro. Sì, mi piace molto, ma vabbè, poi mi piacciono, come tutti i chitarristi, credo, da Eric Clapton, Carlos Santana, Jimi Hendrix, anche Robert Johnson come cantautore, proprio andare indietro. Gli anni 20. Sì, sì, proprio andare proprio indietro a queste cose. Quindi qui. Si parla di blues con Robert Johnson. Sì, anche blues o anche B.B. King, tipo i pezzi sono legati a pezzi tipo Everyday I Have the Blues o Rock Me Baby, questi pezzi proprio dagli anni 20 agli anni 50, che eseguo anche a volte live. Ritornando al pezzo, tua ragazza ha detto che rimaneva in mente perché aveva la melodia, il ritornello che rimane. E questo è vero. Il discorso del singolo o del disco da lanciare e anche il ritornello molto importante. Quando uno scrive un pezzo con un ritornello che rimane dentro, vuol dire che ha fatto un ottimo pezzo, caro Mirko. Sì, diciamo che insomma, forse questo, io quando scrivo non mi preoccupo tantissimo di quello che inizialmente, non mi preoccupo tanto di piacere al pubblico, innanzitutto mi preoccupo del fatto che venga trasmesso il messaggio. Poi ho un modo particolare di comporre, perché non scrivo niente su carta. Ah, come mai non scrivi niente su carta? Non voglio, non riesce. No, io mi siedo con la chitarra, devo avere la chitarra in mano, e se ho qualcosa che mi ha ispirato provo a cantare il pezzo così direttamente come mi viene, senza note, senza accordi, senza, così parte qualcosa. Dopodiché, quando vedo che è un'idea buona e ho cominciato a lavorarci, così provo a dimenticarmelo, lascio lì, lo abbandono per delle settimane e guardo se me lo dimentico effettivamente davvero. È un po' rischioso questo genere. Sì, ma infatti avrò buttato via delle cose, mi hanno detto ma tu sei spostato, e io effettivamente forse, però se dopo le cose che sopravvivono dopo settimane, senza che siano registrate, senza che siano scritte da qualche parte, vuol dire che sono melodie o canzoni, idee a cui vale la pena di lavorarci, altrimenti no, altrimenti le lascio andare. Facciamo una domanda ad Antonio su questo modo particolarissimo di incomporre che ha Mirko, ma come fa a ricordarsi poi? Non ne ho idea. Non ne hai idea proprio? No, perché io sono tutto il contrario. Appunto, tu che componi anche te. Ogni piccola cosa io o la registro o la scrivo. Sì. Perché non lo so come fa. Come fai? Comunque lui, dimmi. Le sue canzoni sono molto molto personali. Perché lui racconta dei pezzi della sua vita in tutte le canzoni. Sono molto personali, quindi penso che questo... lo aiuta a ricordarle, sì. È molto avvantaggiato su questa cosa. Sì, perché effettivamente parto sempre da un qualcosa di autobiografico, di un'esperienza di vita vissuta o di un qualcosa che comunque mi ha impressionato direttamente. È difficile che parta per... ho scritto anche pezzi, a dire la verità, ho scritto anche un pezzo del mio EP Jack e Daniel che parla di un libro di una persona che ho conosciuto, di un ragazzo che ho conosciuto, che siamo diventati amici, ho letto il suo libro e poi ho scritto il pezzo di questo, ma è stato un caso. Di solito sono momenti della mia vita che mi lasciano qualcosa e finiscono in musica quasi senza pensarci. A memoria mia di Sergio sicuramente è la prima volta in assoluto, noi abbiamo fatto tanti live, la prima volta che un musicista mi dice una cosa sconvolgente, ma è una cosa sconvolgente. Me l'hanno detto anche. Assolutamente, vero Sergio? È sconvolgente. Però io credo che... Vuol dire hai una memoria strepitosa allora. Io, ma più che la memoria strepitosa è che ho... fai conto che, non so, ci sono una ventina di pezzi nel mio EP, 7-8 pezzi nel mio primo album e 9 su quello nuovo, quello dopo, ma io avrò composto secondo me il doppio di canzoni. Ma te le ricordi tutte? No, il doppio di canzoni, quelle che mi sono dimenticate sono andate via. Metà sono andate via. Quindi metà le ho avute, cioè sono sopravvissute quelle che... Ma magari che... erano dei pezzi validissimi. Persi, magari persi. Scrivi. Sì, sì. Però io ho sempre, cioè sono cresciuto così. Ho cominciato questo percorso, che non è un percorso che ho fatto in un anno, perché capite che io ho 35 anni e quindi ho cominciato a scrivere suonare la chitarra che avevo 5 anni. Ho cominciato anche Paco De Lucia, l'ho appena letto. Sì? 5 anni anche lui, sì, si è iniziato. Io ho cominciato a scrivere che ne avevo 17, effettivamente 18, 20 anni, 18 anni. A cantare seriamente invece ne avevo 22. Cantavo già da piccolo un pochino, però che ho detto va bene, farò anche il cantante. po', mi tocca fare anche questa cosa qua e farò anche il cantante. E quindi nel corso degli anni è maturata questa cosa, che cominciavo, sai, all'inizio scrivevo per scherzo, cioè mettevo giù un pezzo, un'idea, poi ma sì, dai, va bene, lo stesso, chi se ne frega. Adesso mi hai sconvolto tecnicamente, perché non riesco a capire come riesci. Ma è quello, guarda, il bello. Mi sono posto, perché delle volte mi sono trovato anche davanti, cioè, a dirla è facile. No, restano in mente le canzoni più, diciamo così, belle. Sì, ma che appunto devono restarti in mente. Sì, sì, dire. Ma magari mi restano in mente anche, poi magari la volta dopo non è proprio uguale, le modifico, oppure magari sì, sì, e sì. Dopo, perché fate conto che io i primi pezzi di Bach ho cominciato a comporli poi 3 anni fa. Quindi io scrivo una decina di pezzi in un paio d'anni. Cioè non scrivo i pezzi per non mi interessa nell'arco di un anno 10 brani da metà, perché ho dei pezzi che li devo vendere, li devo dare. Io scrivo per un senso artistico. È ancora peggio, cioè, allora è ancora peggio, ancora quando ne ho voglia, no? Senza applausi o fischi cantava. Sì, esatto, cantava Guccini. Va piano, lui va piano a fare io i pezzi. Sì, sì. Quando arrivo i pezzi, quando adesso ok, poi scrivo una cosa, se non mi convince la smetto. Ma mi sono posto questo problema, e ci sono stati anni in cui dicevo perché mi diceva, ci sono state persone che mi dicevano: oh, ma allora, cioè, hai finito sto disco? Mi stai facendo ascoltare questo pezzo qua un po'. Scrivono in cima questo foglio, che io adesso voglio leggere un po' le parole, perché non si sa, tutte le volte cambi qualcosa. E io mi sono posto il problema, ho detto: ma io ho un metodo, forse c'è qualcosa che sbaglio. Poi ho letto di artisti che, per dire Sil, che è un grande autore. Io ho visto che lui non fa come me, però cambia un pezzo 100 volte, centinaia di volte, arriva, lo cancella, lo scrive. Ma lo cancella, lo scrive? No, sì, lui esatto. Scrive, però anche lui lo rimaneggia finché sì. Proprio non c'è. Però questo è difficilissimo, perché cioè, si rischia anche questa cosa di andare, di assecondare il proprio stato d'animo momentaneo. Quindi magari tu scrivi qualcosa che in quel momento lì ti sembra bellissimo, e dopo 2 ore dopo, no, anche una settimana arrivi e dici: no, ma questa cosa e la cambi, e tu dici: ok, la cambio, non la faccio. Poi la ricambi e poi la ricambi e trovi una mediazione praticamente con te stesso. Io ci sono cose registrate nel mio EP che sento adesso che dico: ma va là, che roba che ho fatto, senti qua questo qua, oppure senti che accordo che ho fatto sotto sta canzone qua, speriamo che non se ne accorga nessuno, tua sorella soprattutto, che no poi i miei amici che mi dicono, poi delle volte mi dispiace, perché ci sono persone che mi hanno cominciato a conoscere magari in questo periodo qua, hanno cominciato a conoscermi magari dal mio EP e mi dicono: bellissimo quel pezzo lì. Io dico: grazie. Poi in realtà penso: ma cosa dici, che fa schifo, che è un pezzo che fa schifo, però non lo dico delle volte, quindi. Vabbè. Musica. Sì, suoniamo. Yes. Allora, cosa? Quello che vuoi. Cosa vi facciamo? Mio fedele scudiero Antonio Gill. Cosa dice che le facciamo? Facciamo Desmo Boys. Yes. Racconta un momento che cos'è Desmo Boys, perché tanti amanti dello Ducati lo devono sapere. Guarda, Desmo Boys, io insomma non so. Facciamo dopo che. Facciamo dopo. Che facciamo stiamo dopo. Chiacchierando dai, un dai, po'. Dai. Facciamo dopo. Ok. Metto a posto, ma modo microfono, okay. Ci siamo. Salto su al mio cavallo ferrato, brillante rosso Ducati, guarda qui e non mi invidiare, se il mio motore sa cantare. Desmo, poi siamo noi, stiamo qui davanti in faccia a tutti quanti, Desmo, voi nuovi eroi. Il gas è spalancato per un giro da primato. sai, è un istinto naturale quello di voler domare. Ma il mio cavallo ferrato non è molto educato, non si sa dove vuole andare. Desmo, poi siamo noi, stiamo qui davanti in faccia a tutti quanti. E Desmo, poi smuovi eroi, il gas è spalancato per un giro mozzafiato. Col coraggio e la paura, ma negli occhi l'avventura, su questo mondo che scorre sotto a noi. Il coraggio e la paura, ma nel cuore pietra dura, mi sta il sangue di chi vuole solo eroi, solo eroi. E allora, Desmo, boys, siamo noi, yeah. Stiamo qui davanti, in faccia a tutti quanti. Desmo, boys, nuovi eroi, il gas è spalancato per un giro mozzafiato. Bandiera a scacchi per noi, noi che siamo i Desmo Boys, oh, Desmo Boys, Desmo Boys, yeah. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:43 minuti, Blu Radio Veneto, Mirko Colombari nei nostri studi insieme ad Antonio, giusto? Sì. Yes, okay, sì, siamo okay. Noi. Maurizio, allora, possiamo riprendere il discorso di sì, prima. Della Ducati, Desmo Boys. Come mai questo pezzo dedicato alla Ducati? Qualcuno ha scritto giustamente che è un pezzo molto punkettaro. Sì, è un po' di punk ce l'ha. Sì, infatti effettivamente... Anche qua hai tentato di fare un po' di punk con Antonio. Diciamo che sì, qui c'è stato anche... Diciamo che è un po'... non è un pezzo che eseguiamo di solito con un'attenzione anche particolare, perché ci piace suonarlo sporco, ci piace suonarlo anche cattivo. Certo. E il pezzo, questo è la versione più punk, anche nel disco è la versione un po' più rude, perché in sostanza parla di un gruppo di motociclisti e quindi anche proprio l'essenza del pezzo che è rock. Cosa vuol dire la Ducati in Emilia? Ma guarda, se credo che in tutta Italia, soprattutto in Emilia, dai. Soprattutto in Emilia, però credo in tutto il mondo la Ducati sia un brand, un Italian brand di quelli che possiamo essere. Cioè, che non so se possiamo essere orgogliosi. C'è ancora italiana? No? No, adesso è stata comprata da l'Audi. Sì, adesso diciamo che abbiamo. Tedeschi ci stanno colonizzando, però diciamo che. Ha portato i capitali, dai. Dai. Però almeno il marchio resiste, insomma. Sì, dai, almeno anzi, abbiamo qualcosa che anche. In Italia che comunque abbiamo costruito di. Veramente interessante, ed è il motore della Ducati, è definito il motore desmodromico, e ci sono un gruppo di motociclisti che ho conosciuto, poi molte cose che iniziano con Desmo, il motore desmodromico, i ragazzi, un gruppo di motociclisti che si chiamano i Desmo Boys, Desmo nei monti, ci sono raduni dappertutto, e quindi io mi sono... un pochino appassionato all'insieme di questi, vedendo l'unione di questi ragazzi, la passione per ragazzi che vanno poi anche in pista a correre, che girano in moto tra la domenica, o che si trovano anche solo per la passione di stare insieme, tutto arrivato da questo insieme per passione per le moto, e quindi credo che mi abbia lasciato qualcosa, e mi è venuto naturale scrivere un pezzo su questo. E il pezzo, insomma, parla un po' della cattiveria dell'utilizzare la moto, che insomma ovviamente sappiamo tutti che va utilizzata sempre in sicurezza e quindi insomma anche sulle strade va utilizzata in una maniera come si deve, però credo che le sensazioni per un motociclista siano che ti può dare una moto di questo tipo siano infinite. Quindi, rosso Ferrari, rosso Ducati, il cuore, la forza. Sì, quello. È un rocchettaro, doveva fare un pezzo dedicato al motore, più che altro, alla forza. Sì, e poi il discorso del perché io poi ho provato, ho usato moto Ducati. Hai provato a correre con la Ducati. Moto Ducati e mi è piaciuto proprio. Io non me ne intendo, non so Sergio se se ne intende, però cosa vuol dire correre con una Ducati? Vuol dire che c'è una cosa diversa da qualsiasi altra moto, come correre con una Ferrari. Ma sì, è come sentir dire il motore gira diversamente, ha un motore, cioè proprio l'Italian brand Ducati e il fatto di questo bicilindrico Desmo che gira la frizione a secco, diciamo che ha un già qualcosa, il suono è diverso da tutte le altre, di tutte le altre e ha un qualcosa di particolare, proprio particolare, un identificarsi come chi si identifica con l'Harley Davidson, l'appassionato dell'Harley con il giubbotto di pelle, con l'Harley Davidson, è un mondo, è un tutt'uno con la moto e invece diciamo che il mondo Ducati è più vicino a quello che è il mondo corsaiolo, perché sappiamo tutti, quindi il mondo della pista, quindi il mondo dello sport. Il mondo dello sport ha una sensazione di sportività, quindi che pervade tutto, insomma, i raduni, pervade tutto quello che questi gruppi fanno, insomma. Quando hai presentato il disco hai scritto una cosa molto bella nella presentazione, che è questa, e forse si collega al discorso della corsa, dello sport e della libertà. Secondo me volevo un album vero come il pane fatto in casa, che adesso non si fa più, ma si dovrebbe fare forse. torneremo anche a quello. Sta già tornando. Stiamo già tornando, vedi come purtroppo. Purtroppo da un lato. Insomma. Da un lato, sì. Crisi. Dunque, con il pane fatto in casa, senza troppi artifici tecnologici. Poi proseguiamo, ma già dire senza troppi artifici tecnologici vuol dire spiegare tutto. La tecnologia non deve sotterrare l'idea, la musica. Assolutamente, perché noi abbiamo utilizzato come tutti i programmi computer per registrazioni, come si fa, perché passare fisicamente un album su un CD comunque è necessario una tecnologia, ma quello che è stato fatto, il lavoro in sala prove e poi in sala di incisione, è stato un lavoro che doveva essere il più vicino possibile al live. Quindi con Giordano, che mi ha aiutato nella produzione. Chi è Giordano? Citiamo. Giordano Gambogi è un mio amico, è un chitarrista, cantante, ha avuto anche lui tantissime esperienze, tra cui il Notre Dame de Paris, suona le chitarre con Mario Biondi. Quindi un musicista di grande... ha fatto ladri di biciclette. Professionalità. Ha fatto tante cose. Tra cui ha fatto anche tournée come cantante dei Nomadi, ha fatto un sacco di cose, e tra cui diciamo che questa è stata una delle sue... poche esperienze da produttore. Abbiamo cercato di produrre un album insieme e ci siamo detti, io ovviamente avevo idee ancora più legate all'improvvisazione, più estremistiche, ancora più estreme. Volevi tagliare tutto? No, io volevo addirittura provare molte più chitarre, molti più suoni, però lui diciamo che mi ha frenato, ha cercato di dirmi guarda, bisogna anche ascoltarlo. Tu, esatto, diciamo che tu poi nella realtà io poi sono un chitarrista acustico e cantautore, quindi lui ha cercato di dire, mi ha detto facciamo una fotografia di quello che sei, poi lavoriamoci intorno, però tu da solo, senza niente, nessuno, sei così. E quindi secondo me, dopo io ovviamente avrei voluto cambiare 55 chitarre, provare 65 microfonature diverse, 28 testate, 17 amplificatori, e dopodiché mi ha detto sì, ma dopo poi se dobbiamo andare a rappresentare questo album dal vivo, come facciamo? volevamo tenere un qualcosa che con 4, 5, 6 musicisti fosse fedele al disco, e abbiamo fatto così. Quindi abbiamo, c'era una ragione di fondo, dicevamo dentro lo studio anche questa cosa serve. Serve un'altra chitarra? No, non mettiamocela, un po' zen, come dire. Facciamo un album essenziale, quindi una chitarra acustica, una voce, poi ok, basso, batteria, un Hammond. Abbiamo chiamato un Hammondista bravissimo sulla scena italiana, Gianluca Tagliavini, però si è presentato in studio con un Hammond customizzato, provato anche da lui direttamente degli anni 70, quindi un organo vero. Abbiamo registrato con quello, ma abbiamo usato solo il suono di quell'Hammond, non abbiamo usato synth, tastiere, non l'hai sporcato, insomma. No, abbiamo tenuto una cosa naturale, molto molto 70. L'album è nato così, abbiamo dato questa sonorità, ci piaceva, ci sono alcune parti proprio dove c'è solo una chitarra e una voce. Abbiamo voluto lasciare questa sonorità qua perché era vicino a quello che realmente poi sono. Certo. Sentiamo un altro pezzo del disco, cosa dici, Sergio? La traccia numero 6 è stata scelta, se non sbaglio, che si intitola E pensare che volevo... Yes. Puntini, puntini, puntini. La sentiamo subito? Sì. Sì, poi ne parliamo. Poi parliamo. Un pochettino, dai. Credevo di amare solo quella e pensare che volevo volare sulla terra. Quante cose che credevo, quante cose che volevo. E pensare a chi diceva vendi la chitarra, vai a scuola, studia tanto, la strada è solo quella. Non pensare di aprire tutte queste porte, cosa pensi di trovare, che cos'è che vuoi vedere per te, per noi, vivi la tua vita come vuoi e niente mai rimpiangerai, perché se vuoi nessuno ti fermerà. Fuoco, cabriolet, la camicia di Acapulco. E pensare a chi voleva la corsa nel deserto. Che paura, che delirio. Per te, per noi, vivi la tua vita come vuoi e niente mai rimpiangerai. Perché se vuoi nessuno ti fermerà mai. Con un po' di benzina ed un po' di fortuna troveremo la luna, la porteremo con noi. Una sera d'estate voleremo a Las Vegas, prenderemo la treno cromo e tenteremo la fortuna. Questo va a sfumare. Ho sentito che ti piaceva molto questo genere. Sì, molto molto carino. Prende bene. Traccia 6 e pensare che volevo. Sì. Volevo. Diciamo che cosa volevi? E pensare che questo, l'ispirazione è che cioè il messaggio è mai mollare, perché io ho sentito tante persone che quando ho cominciato, per esempio il classico stacco da quando decidi di lasciare il conservatorio e che decidi di dedicarti al rock, gruppi eccetera, quindi un po' anche in famiglia ti dicono ma cosa fai il conservatorio qui e là, dovresti lasciare il classico per... lasci il classico per un'altra cosa, che quindi sentiero battuto, difficile ma battuto, per un qualcosa che non si sa. E stessa cosa tutte le band con cui ho collaborato, a un certo punto ho deciso ok, io voglio fare il percorso d'artista. La cover band non ti è stancato, basta. È stato un bel inizio, ma devo decidere a un certo punto, devi fare il passo. E tutti ma cosa fai, cominciamo, facciamo le piazze, ma secondo te? E questo, e io ho detto vabbè, sentiero ancora più difficile, ancora più sconosciuto, però ho detto però insomma che cosa voglio fare nella mia vita, mi sono fatto questa domanda e un giorno ho detto va bene, andrà come andrà. Indipendentemente da quello che succederà, successo o non successo, io farò questo, volevo fare questo e questo è quello che ho fatto. E qui dice pensare che volevo suonare la chitarra e pensare che pensavo di amare solo quella, ma praticamente dico il messaggio è per me, per noi, vivi la tua vita come vuoi e niente mai rimpiangerai, perché comunque sia che delle volte il successo, i media, gli articoli, tutto quello che succede di intorno può arrivare, ma magari non sei soddisfatto. E così come magari ci sono cose che magari dal mondo esterno non avvengono perché non è il momento, perché non sei comunque idoneo per determinate cose, ma sei soddisfatto lo stesso. E quindi io quando ho scritto questo pezzo ho detto quello che era il messaggio, era questo qui. E dopo vabbè, l'arrangiamento è saltato fuori un po' così, perché io ce l'avevo proprio ce l'avevamo così, e quindi dopo è nato insomma l'interpretazione che ho dato io. Giordano me l'ha raffinata e i musicisti Italia, ci ha messo anche lui il suo Hammond, e questo è un pezzo un po' più da band, sembra più da band che cantautorale, e l'abbiamo lasciato così. Tu vuoi proprio di mesi nel personaggio del kleptoniano in alcuni momenti, soprattutto in questo pezzo, perché in questo pezzo io ho suonato le lead guitar e quindi ho proprio dato poi sfogo la tua natura chitarrista e poi mi piacciono molto la pentatonica blues, perché la pentatonica blues, io dico sempre, spiega agli ignoranti cos'è la pentatonica blues. La pentatonica blues è una scala, ignoranti nel senso che ignorano, fatto, che non lo sanno, sì, è chiaramente fatta senza i semitoni, quindi senza questi, fatta solo con le note. Ah, ho capito. Con le blue note in mezzo, e sono quelle cose che Slow Hand ti ha dato una grande mano qua. Sì, mi hanno ideale. Esatto, mi ci sono ispirato, e poi a me piace molto, la sento molto mia, diciamo che io le prime volte che mi ci sono avvicinato suonava già, mi piaceva, ce l'ho naturale. Io dico sempre che la pentatonica blues è come la box, o hai il fisico o stai a casa. Ah, ma tu hai fatto altre cose oltre alla box, hai fatto qualcosa similare alla box. Sì, ho fatto un po' di box, principalmente karate. Karate. Beh, sei ben messo fisicamente, cari ascoltatori, voi non potete vedere, non ci sono telecamere, ma fisicamente sei ben messo, Mirko, assolutamente. E beh, io dico sempre che la pentatonica blues è... ho sentito una bellissima frase una volta di Bob Rosman, che è un chitarrista che suona le steel guitar, Hawaiian guitar, sperimentatore, musica indiana, è famoso in tutto il mondo, è stato considerato uno dei più grandi sperimentatori della chitarra, e va fuori chitarra e voce proprio in maniera semplice, mettendo insieme una serie di cose. E lui ha parlato tantissime volte con direttori di orchestra, e lui chiedeva ma anche il blues ha il suo perché, e i direttori di orchestra, ha sentito molti direttori d'orchestra e molti musicisti di un alto livello criticare un po' il blues, perché gli dicevano il blues è una musica molto elementare, i giri sono sempre quelli, e allora lui gli diceva so you play it, cioè suonala, fatemi sentire se è molto elementare, perché gli accordi è vero che sono sempre quelli, ma c'è un modo di suonare È quello che vale, è quello che fa la differenza. che la comunicazione arriva con due accordi, con due note, e delle volte invece uno ne fa 200 e non arriva lo stesso. Appunto. Quindi è quello lì che mi piace tantissimo di Clapton, che è riuscito, lui è sempre riuscito, come poi vabbè chitarristi anche come Robert Johnson, come John Mayer, più attuali sicuramente, che riescono a dare loro, la loro comunicazione con un suono semplicissimo e con quattro note. E quello, eh sì. E io ho cercato di esprimere in questo pezzo qui, ho lasciato tutte le ritmiche anche di chitarre acustiche, tutti gli arpeggi a Giordano, io mi sono dedicato a quelle due o tre note di improvvisazione. E l'essere musicale grande è proprio così, Hendrix ha sempre fatto così. Come sì, mi ci sono buttato, poi ho detto boh, vediamo cosa succede, non ho preparato, non ho meditato, sono andato in studio, ho provato, ho buttato lì un po' di tracce così come erano e poi ho detto vediamo che cosa salta fuori e abbiamo preso queste qui. Adesso sentiamo un pezzo dal vivo, si chiama Kanazei. Yes. Lo sentiamo prima e poi parliamo del tuo amore per i viaggi. Sì. E poi parliamo del percorso artistico di Antonio. Certo. Ok. Gil. Está bien? Vamos. Quanto amore. Questa notte saranno baci oppure botte. Sandy, Silvia, Elisa, ma chi sei? L'alcol scorre a fiumi a Kanazei. Guarda qui e non ti preoccupare, saranno le stelle a dirci dove andare. Eccomi, per sempre tuo, per sempre qui fino a lunedì. Quanta neve questa notte, chi si bacia e chi? Vai Matteo e datti un po' da fare, la cameriera vai tra. E eccoci, un altro drink, un altro gin, fino a lunedì. Ricordi giorno e notte, il porgoi sempre sopra tutti, tra una discesa matta e una salita, la settimana bianca è già finita, via gli sci pronti per partire, nella mente pronti per tornare, torniamo qui, di nuovo qui, sempre qui, tutti il lunedì. Rockwave, Rockwave, l'onda del rock. Un po' di gente, dai. Mirko Colombari negli studi di Blu Radio Veneto, 23:05 minuti. Abbiamo sentito dal vivo Canazei, l'ultima traccia del suo disco, la numero 9. Sì, Canazei parla del viaggio. Tu sei un personaggio, un artista che ama particolarmente viaggiare, andare in giro per il mondo. Sì, ci sono forma di nomadismo, hai parlato. Sì, mi piace, diciamo che mi piace, in questo brano ci sono, in questo album ci sono due brani praticamente che parlano un po' di viaggi, che uno è Due Passi. Sì. Che due passi in senso ironico, nel senso, come dire, faccio due passi, ho fatto 7-8 viaggi in un anno tra qui e là, e l'altro è Canazei, che è una delle mete che ho frequentato negli ultimi anni, perché mi piace la montagna, mi piace sciare, mi piace gli sport invernali, mi piacciono i paesaggi invernali, e credo che noi in Italia, anche nel nostro versante, abbiamo dei paesaggi invernali che sono tra i migliori del mondo, anzi senza forse, sicuramente abbiamo le Dolomiti, sono uno dei paesaggi sia per gli sciatori che per i visitatori, che per chi vuole solo ammirare un paesaggio, è uno delle bellezze montane più belle che possiamo vedere, più belle che possiamo trovare nel mondo. E quindi Canazei, diciamo, sono le solite vacanze che faccio con amici, quindi si scia, si va fuori, si balla, si diverte, bagordi, eccetera. Sì, eccetera, cose che male, dai, come si fa in vacanza, come esattamente tutti. Ma vacanze che vuol dire Brasile, vuol dire Cambogia, sei stato dappertutto, India, sei stato dappertutto, sì, Laos, ho fatto in Cambogia, sono stato in Cambogia, sono stato in India, sono stato Stati Uniti, sono andato poi a Cuba, sei andato a trovare sicuramente Antonio, la famiglia di Antonio. Sono andato a trovare la famiglia di Antonio, e sono andato, poi vabbè, la mia ragazza è olandese. Quindi vado spessissimo, girato l'Olanda in lungo e in largo, e nei prossimi, credo che nel prossimo mese, se riesco, andrò a fare un giro in Belgio per vedere un po', insomma, un weekend, perché non sono mai stato e sono vicino. Sì, ho fatto Germania, ci sono tanti, sì, mi piace tantissimo girare, conoscere culture diverse. Poi, insomma, ho fatto la vacanza come tutti anche da albergo, ma ci sono vacanze che mi sono rimaste anche proprio nella mente per la loro particolarità. Per esempio nel mio EP c'è un brano che si intitola Starigrad, che significa città vecchia, e parla di un paesino della Croazia che io ho visitato senza volere. Mi hanno detto: ah, là c'è Starigrad. Io pensavo che fosse un paesino, invece ci sono tante Starigrad, perché significa città vecchia. È un paesino sul mare che non saprei neanche ritrovare, e ci sono finito con dei miei amici con un furgone e una tenda. Perfetto. E abbiamo dormito così vicino al mare, abbiamo pescato, abbiamo mangiato, e abbiamo fatto un paio di giorni lì, sapete, Plitvice, il parco, le coste, si parla già di 10 tipo Figlio dei Fiori. Sì, esatto, quella è stata una vacanza un po' così, Figlio dei Fiori, un po' come si usava negli anni freestyle. Sì, esattamente, e quindi si ritorna al discorso della Ducati, della libertà. Sì, libertà, il girare così, senza meta, poi senza dire andiamo verso là e vediamo cosa succede. Siamo finiti qui, non saprei, se mi dicessero dove tornare lì dove ho scritto quel pezzo, io non credo che non ci saprei ritornare. A proposito di meta, adesso parliamo del percorso artistico di Antoni. È nato proprio con Colombari, con Mirko. Beh, dai, diciamo che io ti ho dato una mano nel percorso artistico, però mi ha dato un input. Però che suoni, sono tantissimi anni. Che suono, sì, da piccolo anch'io. Beh, là suoniamo tutti. A Cuba, chiaramente. Sì, a Cuba chi non suona un strumento suona l'altro, ma da piccolo ho cominciato a scrivere anche molto giovane, ma di più da quando sono qua in Italia. È proprio quando ho conosciuto Mirko. Ha aperto un mondo, praticamente. Sì, reciprocamente ci siamo. Ma sì, perché insomma, quando lui mi ha fatto sentire, ci siamo conosciuti così, mi ha fatto sentire qualche canzone che scrivo, ma Ma scrive anche qualche pezzo. Poi vabbè, lui quando l'ho conosciuto io, si parla di che abbiamo cominciato a collaborare, a lavorare insieme a alcuni pezzi, si parla già di 4-5 anni fa. Erano ancora delle bozze, delle idee, quindi ho detto ma secondo me è una cosa che, perché ovviamente lui viene dalla tradizione cubana, sì, come tutti, quindi Carlos Varea, tutti i cantautori cubani, però i suoi pezzi non li coltivava molto perché forse era ancora poco convinto, poco, poi devi essere un po' matto per fare certe cose, devi avere un po' qualcosa di spostato, ma lavoriamo questo pezzo, lavoriamo, sì, fare sì. Proviamo a fare queste cose qua. Poi adesso insomma abbiamo delle registrazioni, stiamo facendo qualcosa, ovviamente sempre senza frette, senza pressioni, perché non abbiamo, lui ti accompagna, sì, il concerto, sì, poi sì, viene, sì, in concerto con me, suoniamo, mi fa qualche chitarra in concerto, ovviamente quando siamo in concerto lui esegue anche pezzi suoi cantautorali, certo, collaboriamo, collaboriamo in vario modo, insomma stiamo cominciando un percorso e non è detto che da questo possa nascere un qualche, anche un gruppo. L'abbiamo già, abbiamo già un progetto, abbiamo già provato con percussionisti, sì, con, però insomma dopo abbiamo lasciato le cose che andassero come andavano e insomma, però l'idea adesso... del gruppo ce l'hai sempre in mente, sì, sì. Sì, c'è, diceva sempre... giustamente Sergio, l'idea del gruppo ce l'hai. Sì, l'idea della, perché l'idea della sonorità che deriva da tante idee, la sonorità suonata proprio, porta il gruppo, certo. E poi oltretutto porta anche alla musica vera, perché cioè, comunque per fare musica vera ci vogliono una chitarra, una voce, però io non posso suonare tre strumenti, cioè, certo, quindi mi servono tre persone, certo, e quindi per poi doversi staccare da quello che è, abbiamo detto, il mondo della tecnologia, che deve essere un supporto al lavoro umano e non il centro del lavoro umano. Esatto. E quindi insomma abbiamo provato anche queste cose, insomma adesso comunque penso quando suoniamo insieme, che faccio i miei pezzi, ti lascio esprimere al massimo. Sì, e poi ovviamente si lascia andare lui. Io ovviamente quando suono anche con lui, che lui diciamo si dedica alla parte cantata, quindi si dedica, e io posso fare il chitarrista. Io posso fare il chitarrista proprio ti sfoglio. Sì, ma poi per fermarmi su una solo mi devono sparare, perché cioè fermarmi basta proprio, non, dopo un po' non, le facce delle proprio persone, proprio gli anni 70 il chitarrista non si fermava mai, sì, andava non, avanti, cioè, sempre dopo un po' che dicono ascolta bene, solo un minuto, due minuti, però dopo, però tre minuti poi basta, io non mi fermerei mai l'improvvisazione. Tu nasci chitarrista, sei sempre nel tuo DNA, sì ce l'ho, è quella lì, cado lì, rimarrà sempre. Benissimo, sono le 23:13. Cosa dici, Sergio? Un altro pezzo da disco? Facciamo un altro pezzo da disco, sì. E poi? L'appuntamento? Ah, l'hai sì, saltato, cioè, l'hai no, saltato. No, hai ragione, adesso facciamo l'appuntamento. Loro non lo sanno, ma è un bel appuntamento. Facciamo una canzone, sì, prima per staccare. Esattamente, va? Traccia 7, Mia Regina, eccola qui. Ok. Sera, cosa sei? Mia regina o cortigiana? Scegli pure il distintivo e poi dimmi quel che vuoi. Questa sera cosa sei? La mia vergine puttana, farò tutto quel che vuoi. Tanto siamo tutti uguali, pezzenti, perdenti, abbiamo grandi ali tra le mani. In equilibrio sopra un fuoco resterò e riderò di voi. Nascosto sotto le lenzuola crescerò per questo. arco intorno al tuo viso, sembrano le porte del mio paradiso. Labbra che strisciano sulla mia pelle, rendono rosse tutte le stelle. Mani che graffiano questa mia schiena, urla che vengono da una sirena. Paradiso rosso sangue, in equilibrio sopra un fuoco resterò e riderò di voi. Nascosto sotto le lenzuola crescerò, per questo piangerò. Pronto? Maurizio? Eccoci qua, eccoci qua. 23:17, allora abbiamo sentito Mia Regina, la traccia numero 7 del disco di Mirko Colombari. E adesso, dicevamo, adesso siamo presenti, di... Sergio, presenti te. È tempo di un giochino che facciamo con tutti gli artisti che passano di qua. Quante canzoni facciamo? 5? Beh, 5 se ce la fanno. Cioè, è che non ti sì, vedo. Sì, tocca... sì, direi. Sono qua, sono qua. Mi tocca... 5 a scelta, 5 brani. 5 brani, che... 5 dischi che portereste in un'isola deserta. Ok, adesso ricordare proprio a memoria tutti i titoli dei dischi. Sono perché... poi i 5 dischi della vita, insomma. Sì, insomma, diciamo. Sì, sì, sì. Beh, sicuramente ho detto un disco di Clapton. Quindi, qualsiasi, ma no, ma diciamo che sono più legato ai brani, primi brani tipo Cocaine, Layla, The Sheriff, anche che cover, quei brani lì, quindi non so, forse una raccolta di Clapton, quindi che riassuma un po' tutta quella che è l'essenza. Un po' meno blues allora. Sì, diciamo un po' meno, anche un po' meno... Mi piacciono anche i lavori unplugged di Clapton, però diciamo quello che è diventato un po' più... un po' più mi piacciono i pezzi, i brani un po' più da chitarrista proprio. Perché lui ha cominciato e continua a scovare nel blues, anche l'ultimo disco. Sì, sì. Vedi. Questo è un classico, un classico dei classici. Eccezionale, sì, sì, sì. Sì, sì, lui continua, è lui poi che ha ridato, è uno tra che ha rireso famoso Robert Johnson. Certo, l'ha riproposto alla grande, Johnson, sì. Anche a Gigi Cale, tutta gente. Esatto, tutta gente che era scomparsa, sì, sì, poi era lasciata nell'oblio. Sì, ecco, poi ha fatto collaborazioni anche con gente come Muddy Waters. Sì, certo. Quindi, insomma, Clapton è un grandissimo, musicista. Poi sicuramente direi una... compilation, diciamo l'album, il doppio di Monty Montgomery. Monty Montgomery è l'album doppio che si deve chiamare l'album, no, Work in Progress è il DVD, è l'album, adesso non mi ricordo il, Monty il Montgomery, titolo, però Monty Montgomery mi piace molto. Poi sicuramente un album di Ligabue. Quale come Ligabue? Italiano, Ligabue direi, prima periodo o periodo di mezzo o l'ultimo periodo? Beh, io eseguo sempre... Facciamo cosa esegui. Cosa ci fai? Quindi Piccola Stella Senza Cielo, che okay? Questo brano, tra l'altro, io ci sono, lo eseguo quasi sempre, ci sono molto affezionato perché è molto bello per tutte le cose che non dice. Ah, ho capito. Quindi il testo, sebbene il giro siano quattro accordi sempre, sempre quelli, è molto bello perché secondo me esprime dei concetti senza dirli. Quindi mi piace questa fa cosa immaginare. Qui. Sì, esatto, lasci immaginare. Quindi direi il primo Ligabue, poi insomma sono un emiliano, quindi Bar Mario. Certo, sì. Fa parte, eccetera, fa parte del, di tutto quello che è il, che il normale, serate, certo, eccetera. E abbiamo detto Clapton, Montgomery. Ligabue. Ligabue. Poi in altri due. Di lì forse un qualcosa di... Battisti. Ah, quale? Lucio Battisti. Lucio Battisti, lì trovare un album, perché io mi affido di solito alle raccolte, perché raccolte, diciamo, con Mogol o con Barnella? Ma preferisco Mogol. Preferisco Mogol, però non, diciamo che insomma non disdegno né uno né l'altro. Chiaro, sono legato agli album, come posso dire, il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Battisti classicissimo. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. ok? Queste cose qui, che Battisti, quindi molto classico, e poi La mia anima. Questo è il Battisti ultimo, ultimo come gol. Esatto. Bello, bello, sì, bello. Questo è bellissimo. Sì. Un po' più La mia anima, anche un po' più. Un po' più cattiva. Mm. Perché sono cattivo, cattivo hard musicalmente, rock, hard rock e Van Halen. Ah, Van Halen, direi Van Halen. Quindi vediamo se Sergio pesca Van Halen. Abbiamo solamente Jump. Abbiamo Jump. Jump è quello che mi piace meno. Chiaramente è successo chiaramente, planetario. L'ha avuto perché, con Jump, lo so perché effettivamente lui suonava. Cioè, diciamo che lui è un grandissimo chitarrista. Ha suonato le tastiere principalmente in questo qua. Tutti i famosi per pam, pam, pam, pam, pam. E lui suona le tastiere in questo album qui, oltre alla solo di chitarra, e direi che questi forse sono i miei riferimenti un po' più, diciamo che sono quelli che vorrei riascoltare per anni. Ho capito. Antonio, tocca a te adesso. Beh, io porto di sicuro Led Zeppelin. Quale? Il volume 4, dove c'è Stairway to Heaven, mi sembra. Sì, esatto, certo. Quella è un pezzo da 90, da 90, sì, 90. Forse quella, questa qui me l'hai fregata. Forse dopo sulla tua isola vengo a fregarti questo disco qua. Poi sicuramente Paco de Lucia, che io l'ho visto dal vivo a Cuba, era impressionante. Io l'ho visto tanti anni fa con tre chitarristi a Padova, ma molti anni fa si parla. Sì, sì, era poi porterei anche un Beethoven, un altro rocchettaro. Qualcuno dice Mozart, nello stile, cioè nei tre rocchettari. Io porto un disco di Beethoven perché è sempre molto più Beethoven. Sì, sì. Che... E poi della musica cubana che magari non si conosce, cantautore cubano Silvio Rodriguez, che è un grande cantautore cubano. Noi conosciamo Compagno Secondo perché Compagno Secondo grazie alla colonna sonora del film. Sì, sì, è un po' Buona Vista Social Club. Buona Vista Social Club è musica molto vecchia questa. Mentre il cantautore che hai citato è musica più moderna. Sì, è dagli anni 60 in poi. Ho capito. Fino ai nostri giorni cantautori molto molta musica, molte parole, molto bello. E poi il Jethro Tull, Aqualung. Ah, Aqualung. Un altro storico album. Poi ne avrei altri tanti, ma io ho dovuto scegliere a 5. Mi sono venuti in mente una fila di cose tra gli italiani, anche perché abbiamo avuto musica in Italia che insomma tutti parlano di musica. Eccolo qua. Porterei anche un De André, e poi che, oppure album della PFM, che noi diciamo che secondo me i tempi della PFM sono stata una grandissima unione tra quello che è un arrangiamento musicale come si deve e una bella poesia italiana, perché i brani come Impressioni di Settembre hanno sia la parte poetica che la parte strumentale, che la parte musicale, quindi noi abbiamo queste PFM, cose qua. PFM, fiore dei musicisti di PFM. Sì, assolutamente. Così come per me negli anni 80 abbiamo avuto a livello di rock i Litfiba, hanno fatto tournée mondiali con musica italiana, quindi tournée mondiali con rock italiano, che dire rock italiano è come gli spaghetti western, cioè che noi siamo riusciti a vendere il western agli americani. E in questo caso qui i Litfiba sono riusciti a vendere il rock a tutto il mondo, che è una cosa, cioè, non da poco. Come dico io, ci vuole del pelo, E Pelù l'aveva forse. Sì, forse lui ce l'ha. Non solo nel cognome, insomma. Sì, esatto. Beh, suoniamo che dai, cosa, dai. Facciamo, sempre per rimanere in tema di viaggi, facciamo Covent Garden. Sì, che è dedicato a Londra. Dedicato a Londra, c'è un quartiere che è il quartiere degli artisti, si chiama proprio Covent Garden. È un quartiere, tra l'altro inizialmente c'era un mercato e si chiamava Covent Garden, credo, e poi è stato cambiato il nome per errore, così è diventato il quartiere degli artisti, ma è ancora abbastanza, come posso dire, c'è lastricato, ci sono piazzette piccole, bar, ancora a misura d'uomo. È ancora, esatto, proprio a misura d'uomo e a misura di artista di strada, è molto bello, si respira una bella atmosfera. Ci sono andato in uno dei miei viaggi e sono tornato a casa e mi è rimasto in mente questa cosa qui, insomma il pezzo fa così. Nordic Covent Garden c'è un mondo di turisti che vanno alla stazione in cerca di persone. A sud di Covent Garden c'è un mondo di jazzisti. La loro educazione sembra una trasformazione. Questo mondo che brilla intorno a te accarezza la differenza tra noi due. Questo mondo che brilla intorno a noi mette luce ai tuoi occhi da bambina. E volo via sulle strade lastricate, c'è la mia energia. E scappo via dalle strade levigate con malinconia. C'è un po' di follia in quest'energia. Ia ia ia ia. Nell'West di Covent Garden c'è un parco molto grande, si chiama Kensington, e l'erba è così verde. E tutto intorno la metropolitana, grande ragnatela sempre piena di persone. Questo mondo che brilla intorno a te e accarezza la differenza che non c'è. Questo mondo che brilla intorno a noi mette luce a un bellissimo sorriso. E volo via sulle strade lastricate, c'è la mia energia. E scappo via dalle strade levigate con malinconia. C'è un po' di follia in quest'energia. Ia ia ia ia. Ad est di Covent Garden guarda gli affaristi, la loro dedizione parte già da colazione. Ma poi c'è il venerdì e un'altra birra al pub, un altro affare chiuso, tutto questo è Londra. Another night in London, quanto è bella Londra. London lifestyle, London lifestyle. Questo mondo che gira intorno a noi. London lifestyle, London lifestyle. E volo via sulle strade lastricate, c'è la mia energia. E scappo via dalle strade levigate con malinconia. E volo via, scappo via. Covent Garden c'è un mondo di turisti che vanno alla stazione in cerca di persone. Benissimo, Covent Garden dedicato a questo quartiere dei turisti. Sì, in Francia si chiamano i Bohemien. Sì, non diciamo esistono che... più forse. Ma no, è adesso... un po' passato, però l'idea di Bohemien di essere liberi. Sì, cioè, esiste ancora. Di essere, diciamo che al di fuori delle mode si permea dentro a questo quartiere di Londra, si permea, si sente questa l'essenza di questa di questo sentore, di questa. Solo il fatto che c'è gente che non ha fretta, c'è gente che non ha fretta, che passeggia e che ascolta, e gente che suona senza amplificazione, piccoli bar, cioè, bello. Tu sei stato spesso all'estero. Sì. All'estero c'è proprio la mania bella di suonare per le strade senza amplificazione. In Italia no. No, in Italia non esiste. In Italia rompi le scatole. Esatto, rompi le scatole. In Italia diciamo che sei sei un matto, un barbone, sei un barbone. Che fa l'elemosina. Esatto, sei un barbone. Chiedigli l'elemosina. Sì. Perché vedere un in strada che suona a un bel livello è una cosa strana, non succede, è difficilissimo. Prima, quando hai detto il quartiere degli artisti, mi pare. Sì. Io ho pensato in Italia non esistono quartieri degli artisti. No, io direi che non ho mai sentito parlare di zone o anche non so, raggruppamenti di locali. Non so, ad esempio, una piazza con tre locali che fanno io ho detto live perché suono chitarra e voce, però così come anche pittori, fotografi, non abbiamo questo tipo di avevamo, credo, noi siamo uno stato con una serie di città d'arte, con abbiamo avuto artisti di altissimo livello. Secondo me, credo che negli ultimi anni l'Italia abbia perso un po' questa cosa qui. Vabbè, non parliamo a livello musicale, perché credo che effettivamente a livello musicale abbiamo perso tantissimo. Tu hai detto si sta addormentando, l'esatta dicitura, quando sì, ti ha fatto una domanda di questo. Sì. L'Italia si sta addormentando, quella cosa musicalmente parlando. Sì, si sta addormentando. E abbiamo avuto come abbiamo detto, artisti ma internazionali, non sto parlando di tanti anni fa, perché l'Italia forse viene più da una tradizione di poeti, quindi Dante, Petrarca, Boccaccio, però abbiamo avuto anche musicisti di un certo livello, perché non parliamo di Mogol Battisti, ma parliamo anche di PFM, ma parliamo di una serie di... anche abbiamo avuto Modugno. Modugno internazionale. In America si conosce purtroppo solo Modugno, si sì, conoscono i ricchi e poveri, Albano, sì, non sì, si sì, conosce sì, i gruppi rock italiani, no, non si conoscono, o meglio quelle prog, ma dobbiamo andare in Giappone, dobbiamo andare in quel posto. Esatto, là. Esatto, ma forse credo che sia un'espressione di quello che sta succedendo un po' negli ultimi anni in Italia, quindi non stiamo a parlare solo di crisi, parliamo di un poca attenzione verso determinati ambienti per concentrare l'attenzione solo su altri, perché tutto quello che fa business immediato adesso è l'attenzione anche nel mondo dell'arte, che dovrebbe per contro essere il contrario, perché l'arte dovrebbe essere quello che invece sfugge a quello che è il mondo veloce, quindi il mondo tecnologico, il mondo dell'industria, il mondo del business, che è business in quanto tale, dovrebbe essere invece, il mondo dell'arte dovrebbe essere qualcosa che non c'entra con questo, e invece anche il mondo dell'arte sta seguendo un po', diventa espressione, o però forse è sempre così, l'arte di uno stato è espressione di quello che è lo stato in se stesso, quindi forse... Prima Sergio ha detto una cosa molto giusta, che non esiste una città degli artisti in Italia. Lucio Dalla aveva tentato di fare una cosa simile a Bologna con gli artisti di strada in Piazza Grande, vero, sì, Piazza vero Grande. Sergio? Sì, cosa sì, dici sì, che tu abiti vicino a Bologna, sì, non tanto di strada? Ma guarda, io ci sono, giro ogni tanto anche a Bologna, faccio... Una volta che c'era adesso Dalla purtroppo non c'è più, e Dalla aveva quella capacità di calamitare, di radunare, di accerchiarsi di artisti. Ma poi cercando di dare uno spunto positivo anche a persone che lavoravano in questo mondo, senza Carboni, anche che hanno fatto grandi brani nel... Bersani, Carboni, Ron, eccetera. Ron, tutta gente che è girata intorno al personaggio di Dalla, ma anche... c'è stato un bel movimento dato da lui, chiaramente adesso è un po' il mondo dell'arte è in recessione, e anche a Bologna effettivamente il mondo della musica sta soffrendo parecchio. Beh, noi potremmo dire che non abbiamo un quartiere, ma abbiamo una regione intera, che è l'Emilia Romagna degli artisti, insomma. Sì, in Emilia Romagna abbiamo una serie di artisti, soprattutto cantanti, cantautori, gruppi. Sì, sì. Sì, sì, io sono un po' un rocchettaro, quindi Vasco Ligabue sono abbastanza, ci sono abbastanza legato, ci sono cresciuto, ma anche Zucchero, esatto, Zucchero. Brani come Overdose d'amore, brani come... tutto l'album blues, sì, bellissimo, sì, bellissimo. Blues, quello dopo Orange e Birra, sì, sì, sì. Bellissimi, sono fatto degli album che per me sono... questo è, ecco, uno degli artisti cioè, che macchina, blues, la musica sì, italiana, sì, la musica italiana nel mondo, perché ha fatto concerti a Royal Albert Hall. Cioè, l'unico che ha fatto un duetto con Miles Davis. Sì, mamma mia. Sì, quando si parla di Miles Davis, un mito assoluto. Eppure ci è riuscito. Un italiano c'è riuscito a fare un duetto con Miles Davis, quindi è una cosa straordinaria, secondo me. C'è una versione di Dune Mosse, mi pare, con c'è il video su YouTube, vabbè, non si può mettere, però bellissima, mi pare con Miles Davis. Sì, mi pare sì, sì, bellissimo veramente. Vuol dire che aveva questa capacità di avvicinarsi, di riuscire ad entrare in un mondo che chi poteva pensare di andare a suonare con Miles Davis, una cosa incredibile. Sì, ma poi credo che lui abbia, cioè, ascoltando gli album di Zucchero, sono album a distanza di anni, che io quello che dicevo del mio album, spero che il mio album prima rimanga. E la copertina in bianco e nero, perché spero che superi la prova del tempo e che quindi non sia una cosa che la volevo fare alla moda del momento. E credo che questa cosa qui nell'album di Zucchero è l'esempio, perché se ascoltiamo Rincense Birra, lo ascoltiamo con lo stesso sapore di 20 anni fa, di 10, 15 anni fa. Ma suona ancora attuale. Però suona ancora attuale, sì, sì, e credo che tra 20 anni suonerà ancora attuale, perché ci sono strumenti veri, canzoni vere, è stato registrato, però insomma ci mancherà quel qualcosa di non so che è live, che sarà stato ricorretto per forza, perché è un disco. Però secondo me, se prendiamo gli elementi che hanno suonato lì, riescono a riprodurre esattamente uguale un concerto di Zucchero. E questo è una... A proposito di Zucchero, cosa ne pensi, Antonio, del discorso che lui, il disco che ha fatto a Cuba? No, non dissi niente del disco di Cuba. Beh, personalmente... Personalmente, tu sei un musicista personalmente... cubano. Non sono molto soddisfatto. Ah, non sei molto soddisfatto? No, del disco. Sta un'operazione commerciale, dici? No. No, non credo. Ma forse no. Non credo commerciale. Non credo. A me particolarmente non piace questa suonorità. E paradossalmente è quella che voglio, che sto cercando di fare io. Ah, ho capito. Di mescolare un po' il ritmo cubano con la musica, con il rock. Il rock. Con la musica occidentale. Sai che io non sono mica andato tanto matto di quel disco lì. Però non suona proprio. Non è né una cosa né l'altra. Esatto. Mi sembra la coppia molto fallita di Santana. Ah, ho capito. Ma poi più che altro io credo che abbiano. Cioè, io l'avrei lasciato proprio. Cioè, ascoltato. Mi sembra che l'abbiano voluto patinare un pochino, io l'avrei lasciato più ruvido, più proprio più naturale, più proprio alla cubana, una sonorità molto cubana, cioè il disco cubano doveva essere veramente, lui aveva così. Paura che il disco assolutamente cubano non riuscisse ad entrare nel discorso. È chiaro. Beh, però il nostro è poi un giudizio da musicisti che conosciamo, certo. Anche quei brani e comunque ho sentito il live che tra l'altro era vicino a casa mia e è molto bello il live. Sì, anche per l'atmosfera, per tutto l'insieme, più bello. Già meglio, sì, insomma, già meglio. Sì. 70.000 erano quel giorno. Erano mica poche. Era tutta l'isola, non so se di tutta l'isola, no, però. No, no. Ma tanta gente. Poche, poi, secondo me. Erano pochi. Perché pochi. Non ci stavano. Ah, non ci stavano? No. Perché è un posto che non è molto grande. Morta anche una ragazza, mi pare. Sì, morta una ragazza. Purtroppo sì. Bene. Beh, insomma, diciamo che sì. Comunque ha smosso l'ambiente, quello sì, l'ha smosso decisamente. Sì, sono... Zucchero, lui si muove sempre in ogni caso. Sì, ha fatto delle grandissime cose. Sì. Lui, come stavamo parlando di prima, di altri artisti in Italia che hanno mosso tantissime cose. E negli ultimi anni, invece, insomma, vediamo che il centro dell'attenzione non credo che sia più l'arte, ma non che ci siano. Adesso è stato il periodo dei talent show. Sì, purtroppo. Io dico purtroppo da una parte, forse per fortuna da un'altra, perché se non ci fa, io mi chiedo, è vero che purtroppo perché il centro è diventato talent show e gli artisti vengono presi e buttati via usa e getta. Però io mi chiedo, se non ci fosse stato quello, cioè forse avremmo ancora baglioni. Però non avremmo scoperto neanche quelli lì, perché a parte quello che gira intorno alla televisione, che quindi magari fa un po' business, forse non ci sarebbe più neanche quello, perché adesso io che giro, mi piace girare i club, suonare in locali, mi piace conoscere persone che suonano dal vivo. Tutti mi dicono la stessa cosa. Sì, è chiaro che le situazioni dove si suona nei club, nei locali così, sono molto poche. Ma me lo dicono persone che hanno lavorato con me, come Diego Scaffidi, faccio un esempio, che ha fatto la batteria nel mio disco, che fa le date con Grignani, è suonato con Van Dos Fross. E lui mi dice che, insomma, anche lui sì, si suona, però diciamo che la musica live non è come dovrebbe essere, perché non c'è il movimento di gruppi che girano, di gruppi, cioè, che passi suonano dagli stadi di qualcuno ci sono teatri alle briciole teatri, però i teatri pochissimi, Sì, vabbè, insomma, anche magari ha una dimensione più... Perché teatri pochissimi, perché insomma ci sono alcuni artisti che si possono permettere di andare a teatro, però insomma sappiamo che... No, parlavo comunque di gente famosa, nel senso passi da... in Italia da artisti grossi che riempiono gli stadi a quelli che vuoi per il tipo di musica, vuoi per la quantità di pubblico, gli va bene il teatro e poi appunto briciole. Sì, dopo i locali club dove si suona anche quello che è l'indie rock anche o quello che è il qualche festival indipendente, c'è poca roba, insomma, diciamo non c'è. L'unico che riempie gli stadi secondo me in Italia è Vasco. Ligabue. Anche Ligabue, esatto. Sì, anche Ligabue, anche se ultimamente Ligabue si sta dedicando a un po' più, forse anche lui di più, i teatri. Beh, è vero, sì. Ma Vasco, uno che fa 5 o 4 date, tutto esaurito a San Siro, è meglio ancora dei Rolling Stones o qualche altro gruppo di grandissimo con la dovuta valore. Distinzione, con le dovute differenze, insomma. Con le dovute differenze. Vasco è Vasco, i Rolling Stones sono i Rolling Stones, però... c'è un manager italiano preferisce avere Vasco che sicuramente fa tutto l'esaurito a San Siro. Ma io credo che questo sia la bravura dell'artista rock che è Vasco, la bravura del poeta, però credo che sia anche la mancanza di possibilità per artisti che decidono di fare, cioè il percorso da club, da locale, da quello che è il disco, poi la promozione, poi quello che è, diventa difficile, anche perché poi sappiamo, al giorno d'oggi i dischi non si vendono. Esattamente. Quindi bisogna arrivare alla convinzione che un artista deve trovare lo stratagemma per riuscire, cioè se vuole avere una carriera di un certo tipo, deve riuscire a cercare altri introiti, quindi insomma, e se i locali live sono pochi, se i dischi non si vendono, non è facile, cioè dopo il percorso artistico non ha niente a che fare con quello che è il business, ma il fatto del tempo e dell'edizione che uno ci deve dare, gli investimenti che deve fare, invece c'entrano anche con questo. Musica. Che cosa abbiamo in scaletta? Sono 23, 40, quasi 4, abbiamo l'ultima... anzi le ultime due canzoni da disco, la traccia 8 del disco che ho qua davanti, insomma, che è poi Due Passi, okay, esatto, sì. Che è Due Passi, che è il brano che parla un po' di tutti i viaggi che io ho fatto nel 2010-2011. Ho fatto una serie di viaggi e Li hai messi tutti insieme, diciamo che mi hanno dato l'ispirazione per questo brano. Lo sentiamo allora, ok, eccolo qua. Stringendo le dita intorno a quello che non ho, dicendo ancora ve non so, sudore e fatica, vivendo una vita rinchiusa dentro un brivido, restando sempre in bilico. E poi guardo tutto intorno a me, vecchio amico, te lo chiedo, dove sono i nostri eroi? Se fosse andata così, avrei detto ma sì, guardo il mondo con sorriso e vai. Concediamoci due passi, nelle tasche i nostri assi, sorseggiando qui a Cracovia un bosco mio. Concediamoci due passi e tu gioca i tuoi assi, con le donne di Dublino in tempo al bar. Fatica, correndo in salita su un asse d'equilibrio, restando sempre in bilico. Caos è il signore di tutto il mio tempo. Gli altri dei, tutti morti gli altri dei. Bene, eccomi. Ho una sveglia qui per voi, sguardo duro malcontento, pugno destro sempre pronto. Se fosse stata con me, avrei detto chissà, resto in casa e guardo la TV. Concediamoci due passi, nelle tasche i nostri assi, sorseggiando qui a Cracovia un bosco mio. Caicos o sul mare di Cuba. Concediamoci due passi nelle tasche i nostri assi, sorseggiando qui a Cracovia un Moscow Mule. Concediamoci due passi e tu giocati i tuoi assi con le donne di Dublino in tempo al bar. Due passi, due passi, il vento di Cos o sul mare di Cuba. Due passi. Ci siamo, eccoci qua. Cioè, no, ma tutti in contropiede sono stati presi. Esattamente. Senza base, senza niente. No, aspetta, così. Aspetta. Parlavamo degli artisti, sì, chiaramente. Sì. Una cosa molto parlava bella. Parlava della vita dell'artista. E della vita dell'artista, che sì, è veramente molto, molto difficile. Però sì, gli artisti, citiamo tutti. Ne hai citato solo due, ce ne sono qualche altro. Ok, dai. Io ho già citato in questo album qui Giordano Gambogi. Ho citato Gianluca, che ha fatto chitarre e voci e mi ha dato una mano nella produzione artistica. Gianluca Tagliavini, Hammond, Diego Scaffidi, che ha già fatto album con Grignani, batterista. Frost, batterista. Alessandro Faieti al basso, che anche lui ha avuto esperienze, è stato per anni bassista di Mietta. Adesso è stata rilanciata da Carlo Conti, quindi. Sì, quindi adesso io non so se lui sarà ancora nell'entourage. Nell'entourage. Poi ha fatto abbiamo chiamato per una chitarra, ha fatto una slide guitar Andrea Cusato, che anche lui è stato chitarrista, ha fatto partecipazioni con Mario Biondi. E poi il Wurlitzer nel brano che abbiamo appena ascoltato, in due passi, di Giovanni Marani, che è da anni con Ligabue, è sempre con Ligabue. L'album è stato mixato, masterizzato da Lucio Boiardi, che è fonico per Blue Beat Studio, sempre anche lui comunque sta facendo un sacco di lavori, ha sempre fatto un sacco di lavori tra Elisa, Ligabue, ha lavorato oltre che, ecco, in questo la cosa simpatica anche di Lucio è che mi ha suonato il pianoforte l'Honky Tonk in Canazei, e ha suonato lui, ha anche suonato in questo album qui, oltre che fare mix e mastering, è stato molto bravo. L'ufficio di promozione, che ringrazio anche per il loro lavoro che stanno facendo, che hanno fatto, è 5PM. Poi vabbè, ringrazio tutta l'associazione di Manga Musica di Reggio Emilia, che stanno coinvolgendo qui il mio lavoro, stanno cercando di trascinare questo lavoro in qualcosa che possa diventare anche più grande, quindi anche qualcosa che possa artisticamente coinvolgere anche più persone. E poi tutti coloro che mi seguono al mio paese, che sono molto salutiamo contento, tutti gli abitanti, tutti gli abitanti che ti stanno ascoltando via internet, esatto, di Castelnuovo nei Monti, che hanno contribuito a questo percorso, perché sono anni e anni che mi sentono suonare e dopo un po' io mi rendo conto che è bello sentirmi suonare e cantare, può essere bello una volta, due, 10, 20, dopo io non so come, e cioè, questi sempre lì, sì, sempre, ma io lì non so neanche come fanno, cioè, perché dopo, ma perché sei uno di loro, ma sì, dopo un po' forse dai, è come se suonassero anche loro, ma cosa facciamo, suoniamo, sì. Però cioè, non, dopo un po' diventa sempre quello, dico, ma non vi siete stufati di queste canzoni no. Di Mirko, no. Si vede che invece, quanto pare, no, insomma, qualcosina di positivo magari ce l'abbiamo lasciato. Ringrazio soprattutto voi di Blue Radio Veneto, perché secondo me state facendo una bellissima cosa, e soprattutto quello di fare suonare live due ore, anche insomma, sì, live, intervista, e due ore diventano abbastanza foto impegnative, live, interviste, registrazione, foto, registrazioni e tutto dentro, cioè per artisti è molto bello, e secondo me diventa una cosa che dovrebbe essere, cioè dovreste essere di esempio, perché insomma si fa presto arrivare con andare in uno studio e tirare fuori un disco, è molto più difficile selezionare degli artisti che possano venire qui con un microfono davanti, suonare senza pubblico insieme, praticamente, quindi anche magari sì, che ti può caricare, che ti sì, però è molto, credo che sia molto bello, perché diventa uno può permettere di far vedere il lavoro da studio, ma può permettere di far vedere anche le proprie capacità come musicista, e credo che da voi ci sia un'attenzione molto particolare a questo, perché insomma bisogna far vedere anche, essere aggiornati e informati su quello che può essere il bagaglio tecnico, culturale, artistico di un artista. C'è chi segue Alberto Prisco, sì, no? Alberto, dicevamo, direttore prima, artistico, che mi ha contattato, è stato, mi ha fatto molto piacere, mi ha contattato, mi ha parlato della sua classifica, mi ha parlato di questa radio, mi ha parlato delle cose che fate, e sono stato molto contento di venire qui da voi. Insomma. Anche noi. Maurizio, sì, citiamo 8 momento, minuti. Abbiamo 8 minuti, quindi citiamo 10, velocissimamente una data che c'hai, che è la data. Guarda, concerto. La data principale, la prossima che ho è 27 aprile, 7 Castelnuovo dei Monti, quindi la data, diciamo, che è di apertura della stagione live, perché so già che io entrerò dentro a Gino e Dino Summer Village, che è uno spettacolo di è un varietà live proposto da VBL Produzioni Televisive, è un varietà dove ci saranno due comici che sono appunto Gino e Dino, hanno fatto apparizione anche al canale 5 Striscia la Notizia, faranno un varietà live, e che però in questo varietà ci sarà la parte comica, ci sarà la parte anche di spessore, io farò alcuni brani del mio album, ci saranno anche ballerini, ci saranno probabilmente esposizioni di quadri, gireranno le piazze, però le date non sono ancora certe, quindi non possiamo ancora. Bisogna ci trasferiamo in Emilia. Esatto, in Emilia c'è la cultura. Può essere che, guarda, può essere che lo spettacolo verrà venduto in tutta Italia, quindi credo che può essere che finiremo anche su in queste zone qui, e poi vabbè, avrò un paio di date sempre tra Reggio Emilia e Parma, però la prima data certa fissata è 27 aprile, 7 Club di Castelnuovo dei Monti. Ricordiamo il tuo sito. Io ho la pagina pubblica di Facebook, Mirko scritto con la K Colombari, poi mi potete trovare su www.magamusica.it, che è l'associazione di Reggio Emilia di promozione, nonché sulla pagina pubblica e sul sito di 5-PM 5-PM Promotion Agency, che è l'agenzia di promozione musicale che sta curando il mio lavoro. E se uno vuole fisicamente il tuo disco, come fa? Il mio disco si trova allora, fisicamente non mi sono ancora affidato e non credo che mi affiderò alla grande distribuzione, quindi ci sono due o tre negozi di Reggio Emilia che hanno fatto, altrimenti il mio disco è su tutti i negozi online che sono iTunes, CD Baby, sia questo che quello precedente. Il mio EP invece no, il mio EP deve venire a casa mia a suonarmi, a chiedermelo, perché io del mio EP ho stampato 100 copie e diciamo se che ne possono fare anche degli altri, delle altre. Lo so, però io le do solo le persone che fisicamente me lo chiedono e mi contattano, proprio perché tengo che questo a livello personale, cosa a livello personale, non ho voluto diffondere, quindi questo è quanto. Sentiamo una traccia uno del... Sì. Del mio album precedente, che si è il pezzo sentito il mio rock and roll, quindi, e poi facciamo al finale chiusura suonando, ok? Yes. E allora ci sentiamo tra poco per i saluti. Spiagge di una tenera città, il mio rock and roll, forse è tutto qua, due parole, quattro note dentro un bar, un po' d'amor, perché qualcosa, bambina, stasera cambierà tra le pieghe del vestito, qualcosa di nuovo stasera fiorirà, sì, dopo il tuo sorriso rock and roll dove finirà? Sulle strade di una stupida città. Il mio rock and roll niente cambierà, ma qualcosa in fondo al cuore resterà e griderà, perché qualcosa, bambina, stasera cambierà. Tra le pieghe del vestito qualcosa di nuovo stasera fiorirà. Sì, dopo il tuo sorriso, dopo il tuo sorriso. Il mio rock and roll è un pazzo rock and roll, porco rock and roll, vecchio rock and roll. Perché qualcosa, bambina, stasera cambierà. Tra le pieghe del vestito qualcosa di nuovo stasera fiorirà. Sì, dopo il tuo sorriso qualcosa, qualcosa, qualcosa resterà. Tra le rughe sopra il viso qualcosa, dai vieni qua, dai vieni qua. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Un bluesone questo, esatto, un gran blues. Gran, sì, blues. Sì, sì, sì, sì, diciamo, bello, che era un po' più, la mia anima un po' più wild, diciamo che mi sono sfogato un pochino, lasciato andare un po' i cavalli. È bello lasciare andare, sì, i cavalli. Sì, sì, sì, è molto bello, diciamo che nel sfogo personale anche a livello... a livello proprio artistico ti senti proprio di dare, che ci sono quegli spunti che magari la nota magari non è quella proprio perfetta, non è quella giusta, non è suonata come, però non arriva qualcosa, non arriva un qualcosa. Beh, stasera è arrivato molto secondo me, Sergio. Molto, molto, sì, sì, sì, vi ringrazio, molto bella la trasmissione, molto bello, sono molto contento anche di essere qui e di essere, insomma, entrato nel pubblico del Veneto e mi auguro che adesso è partita, partirà quest'estate comunque in un modo o nell'altro delle date live, tournée live, quindi sono già state, mi presenterai l'album serie. Qua davanti, guarda noi, volentieri, volentieri, e magari mi sposterò anche verso il Veneto, come no, certo, volentieri. Bene, abbiamo finito, Sergio, abbiamo finito. Beh, abbiamo finito, esatto, quindi abbiamo finito con cosa? Finiamo. Ma io direi che mi piacerebbe far sentire al pubblico qui di Blu Radio Veneto Vivo, che è il pezzo, diciamo, più d'atmosfera, per che sia adatto all'ora. Dare la buonanotte, dai. E dare la buonanotte a tutti. Grazie, grazie. Sergio Bortolami. Grazie, regia. Maurizio. Domani? Domani Francesca Ciommei, una musicista che ama molto il jazz, che viene da Roma. Assieme ad Agostino. Assieme ad Agostino e a te, ovviamente. Esattamente, sempre a me. Tu quasi ogni sera. Grazie, buonanotte a tutti. Ciao Mirko, ciao Antonio, ciao Mirko, alla ciao, prossima. Grazie, ciao. Ciao. In questa mia casa che entra e va, vedo